Comunque tu ti chiami Denti, no? Sì, Roberto Denti. E di che classe sei? Del 24, e mi pare che Gianni fosse del 23. E per caso ci siamo trovati tutti e due a fare la prima geometri all'Istituto Tecnico Botti Binda di Cremona. Ci vergognavamo molto perché una poetessa locale ignobile, ma questa non ha importanza. E sì, è una cosa drammatica questa vecchia donna, eccetera, il cui nipote era preside del liceo, di questo istituto, e si chiamava Amorino Brambati, detto da noi Plicio, perché c'era l'abitudine dei soprannomi. E io mi sono trovato con questa prima geometria, eravamo in 13 o 14, e Gianni Bosio veniva da un'altra sezione della mia, quindi non ci conoscevamo. Dopo una settimana il professore di religione, che era uno strano individuo che ci sembrava antifascista naturalmente, ma non capivamo perché eravamo attorno al 40, anziché farci la solita lezione di dottrina, parlò di certi problemi e pronunciò la parola escatologico e chiese se qualcuno di noi sapeva che cosa volesse dire. E io, che presenziavo le ragioni di religione perché non sapevo dove andare, ma ero esentato, vidi la mano di uno che si alzò e che rispose esattamente a questa domanda, il che, riferitosi alla cultura dell'epoca fascista, e avendo io il privilegio di essere figlio di insegnanti, quindi certe cose di saperle, mi sono trovato così meravigliatissimo di uno che veniva dalla campagna, perché Gianni era mantovano, con l'aria ancora, portavamo, io no, i calzoni lunghi perché ero alto, ma lui credo portasse ancora i calzoni alla zuava, che si chiamavano ai nostri tempi alla sgoff, voi non sapete questi particolari. Ecco, e da questo momento, in base all'escatologia, divenimmo amici, e lui mi faceva i disegni, perché io facevo il geometra ma non sapevo come non so disegnare, e in cambio gli ho prestato dei libri di casa mia. E lui era molto rattristato perché era in un collegio di preti che era lo Sfondrati, mentre a Cremona c'era un collegio civico che era quello dei laici ma ricchi. Lui non era ricco, anche se di famiglia credo benestante, non lo so, non mi interessa, ma aveva, la cosa che mi ha meravigliato era che invece di studiare da geometra gli interessasse studiare, cosa molto rara a quell'epoca. Non potevamo parlare di contestazione, naturalmente non c'erano questi momenti, sarebbe assurdo ragionare sui fatti di allora in base all'esperienza di oggi, no? E la cosa che mi ha meravigliato e che ci ha lasciato uniti, anche se poi io sono tornato al liceo perché era la grande ambizione della cultura con la C maiuscola crociana, è che lui già allora, 16 anni, 17, studiasse. E credo che in questo sia quello poi che l'ho seguito, la cosa più importante di Gianni. E quando l'ho rivisto dopo anni, perché eravamo bassiani tutti e due, anche se lui militava e io sono sempre stato estraneo alla vita di partiti, la sua passione è stato studiare. E quando gli ho detto, ma le cose che scrivi sono di una terribile noia, dico, perché? Dico, fai solo il notaio della nostra vita politica? Lui ha detto, ci vuole anche l'umiltà di qualcuno che faccia questo lavoro. Ricordo questa risposta e mi è piaciuta molto. Cioè, è un esempio di modestia come raramente ho trovato. Può darsi che fosse capace di fare altre cose, non lo so. Comunque sapeva di saper fare quello, e per questo io l'ho sempre voluto molto bene. Senti, insomma. Tu dicevi nel 40, avevate già un generico orientamento antifascista? Direi, lui l'aveva come contadino, no? Perché allora si sentiva questa sua origine, ma non capivamo bene. Direi che la nostra generazione ha sentito la guerra come la cosa più tragica di un errore. Non so se lui fosse in piazza con me a sentire il discorso di Mussolini il 10 giugno, forse non c'era più, non cioè era andato a casa, ma io constatai questo, che la prima volta che vidi una adunata fascista senza gli entusiasmi. Cioè vidi una adunata fascista senza entusiasmi. Nessuno la voleva questa guerra, e E pian piano, direi, cioè, parlare di orientamento antifascista è difficile, anche se le nostre famiglie potevano darci, dato chi era fortunato, un certo orientamento. Però non avevamo le idee chiare. Dicevo prima alla Grazia e alla Edoarda Masi, che prima di accorgermi che Croce non era antifascista ci ho messo parecchio tempo. Ma questi erano i nostri modi di essere, no? E quindi direi eravamo molto sprovveduti in una città agricola che non aveva movimento operaio e quindi non aveva un movimento concreto. Sì, sapevamo che c'era qualche antifascista, ma così. Sì. Cosa voleva dire che si sentiva che veniva dalla Campania? Aveva un legame molto preciso con la sua terra allora e si vantava di questo, cioè diceva che la vita di città non era bella, che si trovava isolato, che quando poteva camminare non sapeva dove andare e che non riusciva a parlare con nessuno, mentre nel suo gruppo lo si sentiva. E così, forse dico adesso delle cose che... ma questo era il senso di quello che volevo dire, credo. Grazie. Prego, immagino.